4 mattino. Mai approfondire una notizia. No, invece bisogna leggere solo la parola chiave. Ma no, è meglio. Per esempio, tu vedi Boldrini. Ecco, stia. Ti serve qualcos'altro? Sì, bisogna. La mano deve essere più veloce del pensiero. No, deve stare fermo. Io neanche invece arrivo a Bold. Che le mie dita hanno già digitato vacca. Vacca troia. Lei non sa quante volte ho scritto vacca, ma il titolo si riferiva a Boldi. Ecco, vedi. Massimo Boldi. Urla in aula contro la Boldrini, sono raccolte l'audio un po' disturbato dal telefonino di Di Maio, pensate, potenza della tecnologia. Allora, oggi il primo piano spetta sicuramente alla guerra che si sta aprendo davanti a Montecitorio e dentro Montecitorio per la legge elettorale. Partiamo da là, ma subito le aperture dei giornali. Repubblica, legge elettorale rivolta sulla fiducia, e il fondo durissimo, lo vedremo fra poco, di Ezio Mauro. La Stampa, l'apertura è sulla Catalogna, indipendenza ma trattiamo. L'antidoto liberale al populismo è il fondo di De Nicola. La Verità, apertura diversa, facciamo i monumenti ai terroristi islamici, una notizia sconvolgente a dire il vero, che in provincia di Bergamo una stele accomuna le vittime della Rambla e gli attentatori con i loro nomi. Il sindaco dice: non lo sapevo, l'ho scoperto guardando il monumento finito. Avvenire, la Catalogna è sospesa, ovviamente il titolo di apertura è dedicato a quello che sta accadendo in Spagna. Il Fatto, sei volti, quello di Renzi, di Berlusconi, di Gentiloni, di Salvini, di Mattarella e di Alfano, fascistellum, che insomma sobrio ma molto duro. Il Tempo, non solo Monte Carlo, Fini e Tugliani nei guai, e poi Battisti, rabbia italiana a Rio, due titoli, e poi il fondo di Chiocci, ci mancava il Napolitanum, oggi ci si sbizzarrisce con la declinazione inum. Ecco gli amichetti dell'Islam, quanti intellettuali firmano, filano e sostengono i musulmani. Libero, l'apertura, lungo elenco di convertiti, politici come Pisapia e Boldrini, Mogherini e Bonino, giornalisti come Lerner e Serra, ma anche Fini e Buttafuoco, tutti convinti che i fedeli di Allah siano buoni e vadano accolti a braccia aperte. Poi c'è un'intervista di Bossi: se non passa il referendum, Lombardia e Veneto in malora addirittura. La Gazzetta, derby dalla A alla Zanetti, Inter Milan, l'intervista preparatoria, questa è l'apertura della Gazzetta. Corriere della Sera, indipendenza ma si tratta, il fondo di Galliera Loggia, il declino degli stati europei. Il Messaggero, la frenata della Catalogna e la democrazia che perde la ragione, il fondo di Biagio De Giovanni. Attenti ai lupi, ci si prepara a Roma-Napoli con il titolo di apertura del Corriere dello Sport, Stadio. Il Manifesto, camicia di forza contro questa legge elettorale. Il Giornale, sobrio, nuovo golpetto di Napolitano, guerriglia in aula, grillini fischiati in piazza e il fondo di Alessandro Sallusti sulla legge elettorale. Ma c'è un'esclusiva che leggeremo faccia a faccia con Battisti: non tornerò mai più in Italia, e l'intervista di Paolo Manzo. Questa è la panoramica che ci dà l'idea di come si sono mossi i quotidiani e le loro aperture oggi. Io partirei da Repubblica. Repubblica, dicevo, si schiera contro la legge elettorale con una posizione molto forte, forse qualcuno sarà sorpreso, ma il fondo di Ezio Mauro non lascia scampo. Non è un colpo di Stato, come urlano i grillini in piazza, ma questa decisione del governo di mettere la fiducia sulla legge elettorale è un colpo di mano gravissimo per la materia delicata di cui tratta, una materia di garanzia per tutti e per il momento in cui avviene, a pochi mesi dalle elezioni politiche. Giunge così, spiega Ezio Mauro su Repubblica, giunge così a compimento nel modo peggiore una vicenda emblematica dell'importanza capitale per l'intero sistema politico e della vacuità della legislatura tutta intera, e cioè l'incapacità del Parlamento e dei partiti di trovare un'intesa alla luce del sole che doti il Paese di una regola elettorale non basata su furbizie contingenti e vantaggi di parte, ma su un meccanismo in grado di restituire ai cittadini la piena potestà di scegliere i loro rappresentanti. C'è una contraddizione logica, leggo questo altro passaggio, nel chiamare indecentemente in causa nell'atto finale il governo che non è mai intervenuto nel percorso della riforma. Gentiloni lo aveva sempre escluso, cioè il voto di fiducia, vi spiego, dunque deve spiegare che cosa l'ha convinto a cambiare idea. Questo è il fondo di Repubblica, Ezio Mauro, una posizione molto netta. Volevo leggervi anche il manifesto, perché c'è un esperto di sistemi elettorali, Massimo Villone, un ex parlamentare del Partito Democratico. Dunque, camicia di forza, se i guardiani della carta sono distratti, spiega Villone. E siamo a 6. La legge elettorale della 17ª legislatura rimarrà nella storia come la legge delle 6 fiducie, dal momento che alle 3 di oggi si aggiungono quelle sulla mostruosità nota come Italicum. Per decenni la prassi della Costituzione repubblicana aveva ritenuto che non fosse possibile metterla la fiducia su una legge elettorale. Si citava un solo lontano caso, già riportato su queste pagine, che non doveva ritenersi precedente. E stiamo parlando della legge truffa del 53. Ora, invece, in fine legislatura, un governo debole, dalla maggioranza incerta, che esiste per i numeri parlamentari drogati da una legge elettorale dichiarata incostituzionale, mette la fiducia su qualcosa che non è nel suo programma e che lo stesso Premier aveva dichiarato di non volere. E quindi vedete che c'è un fronte molto ampio e con dissensi diversi anche da parte di giornali vicini alla maggioranza. E vi leggevo invece del dissenso del giornale, che è su Napolitano, perché Napolitano ieri ha preso una posizione molto netta contro un aspetto di questa legge, dicendo che è incostituzionale l'indicazione di un capo politico della coalizione. E allora dice Sallusti: approvare una legge elettorale ponendo il voto di fiducia non è mai una cosa bella, ma chi oggi nella sinistra strepita a memoria corta. Gli ultimi governi, tutti di sinistra, proprio perché privi di una solida maggioranza, in quanto nominati e non eletti, hanno posto la fiducia praticamente su tutto, dalle riforme, compresa quella costituzionale, alle nozze gay, senza contare che anche l'ultima legge elettorale passò con Renzi regnante nello stesso metodo, e del resto solo in Italia si cambia il modo di votare con la stessa disinvoltura e frequenza con cui ci si cambia d'abito. Premesso che oggi Napolitano è solo un vecchio incattivito pensionato d'oro della politica, questo lo dice Sallusti, per cui il suo pensiero non vale più del mio, e premesso che sotto il suo regno la democrazia è stata sostanzialmente sospesa e sostituita da intrighi di palazzo, è curioso rilevare la coincidenza dei toni e argomenti fra il vecchio comunista e i giovani grillini che sul tema invocano e convocano la piazza. Questa legge elettorale non sa da fare. Meglio sarebbe dire, sostiene Sallusti sul giornale pagina 1, non sa da fare la legge, nessuna legge, e comunque non una che dia a Silvio Berlusconi e al centrodestra, e qui sta il comune intento di Napolitano e di Grillo, anche una sola possibilità di vincere le elezioni. Ovviamente sostenere che i grillini e Napolitano hanno lo stesso punto di vista è per me un po' scioccante, però è l'opinione di Sallusti e quello era il nodo del contendere. Allora, vi dicevo, camicia di forza secondo il manifesto e Villone, e il fondo su Repubblica, c'è anche un fondo di folli interessante che parte da una citazione eccellente, quindi ci piace sempre quando si rinverdiscono i classici, ed è una citazione che serve a spiegare perché è sbagliato, quindi non un golpe come sostengono i grillini, ma secondo l'interpretazione di Repubblica un atto che non doveva essere fatto. Allora Folli, a pagina 4, se volete leggerlo, spiega: Gentiloni è stato trascinato in una mischia che contiene per lui più pericoli che vantaggi. Non è un atto eversivo in ultima analisi, ma potrebbe essere uno sbaglio dalle conseguenze insondabili. Accettando su pressione del PD, cioè di Renzi, di porre la fiducia sulla legge elettorale, scrive Folli, il governo Gentiloni risolve forse un problema immediato, mandare in porto la riforma con le buone o con le cattive, ma si espone a un turbine di polemiche in Parlamento e fuori. Come disse Fouché, il ministro di polizia di Napoleone, a proposito della fucilazione del duca di Enghien, è peggio di un crimine, è un errore. Pubblicità. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma mi volete rilassare? Mannaggia. La natura di prima mano. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Proprio ieri il PD ha compiuto 10 anni, che è l'età che dimostrano i suoi leader, proprio preciso. Poi tra l'altro, a proposito di sinistra, nell'MDP si ritrovano insieme Bobbo Craxi e Antonio Di Pietro, hai capito bene, Craxi e Di Pietro, è come se tra 20 anni Will Coyote fondasse un partito con BB, hai capito la stessa cosa. Fantastico, 7:36 minuti, 25 secondi e stiamo parlando del fatto del giorno, cioè la battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Ancora qualche titolo di questa rassegna un po' dedicata principalmente a questo tema, poi andiamo sulle altre cose. Allora, vi dicevo, Fascistellum, il Fatto Quotidiano, il fondo di Travaglio, molto caustico, ne leggo solo alcune righe. Un governo illegittimo, sostenuto da una maggioranza fittizia, figlia di una legge elettorale incostituzionale, spalleggiato da un capo dello Stato eletto da quella falsa maggioranza e già firmatario di una legge elettorale incostituzionale, impone, scrive Travaglio, la fiducia a se stesso su una nuova legge elettorale incostituzionale senza averne il potere per impedire al Parlamento di discutere, emendare e eventualmente bocciare una norma studiata a tavolino da 4 partiti per favorire se stessi, far perdere le elezioni nella prima forza politica del paese, il Movimento 5 Stelle, e alla sinistra non allineata, e per consentire a un pugno di capi partito di nominare i 2/3 delle prossime Camere. Beh, messa così non è proprio una passeggiata. Il Corriere non ha un fondo, curiosamente, sulla vicenda della legge elettorale, ma una vignetta di Giannelli che come un fondo ci sono Berlusconi e Renzi che si abbracciano sorridenti, tengono un cartello in mano, fiduce, esagerato, fiduce, duce, per dire che è una legge autoritaria. E sempre da Villone inveisce contro un dettaglio di questa legge, l'apparentamento che produce, dice Villone, la mostruosità delle microliste dell'1% che portano voti senza acquisire seggi. La previsione che ci siano ha già fatto comparire nei sondaggi il lunedì la lista animalista di Michela Brambilla, stimata a quanto pare all'1,5%, e possiamo immaginare che altri seguiranno a frotte, come le elezioni regionali e locali ci hanno da tempo insegnato. Bene, finiamo sulla legge elettorale e andiamo a leggere un retroscena che ho trovato solo sul Giornale, curioso, di una lista che sarebbe nascendo, pagina 7, animata, pensate che cosa strana, da Prodi e da Saviano. L'ultima idea di Prodi, un ulivo anti-Renzi con il partito di Saviano. Il professore, ci racconta Pasquale Napolitano sul Giornale di Alessandro Sallusti, vuole arruolare lo scrittore che sogna la politica con più sbarchi e droghe libere. Allè. Allora, vi dicevo dell'autonomia, perché c'è anche il referendum sull'autonomia che noi non dimentichiamo mai, così importante per 2 regioni del nord. Il Corriere oggi dedica una paginata al viaggio di Maroni, che vuole convincere e avrebbe convinto Berlusconi a fare un videomessaggio. Marco Cremonesi, Corriere, pagina 12, e sotto un'intervista a Bossi: il voto sull'autonomia è meglio della secessione, Silvio si deve impegnare di più. E questo è il punto sull'autonomia. Sulla verità, questa notizia del monumento, un monumento brutto peraltro, bisogna dire, una specie di stele verde smeraldo, sembra la criptonite, in provincia di Bergamo, una stele accomuna le vittime della Rambla e i loro carnefici, tutti caduti, sfregio ulteriore, lo racconta Giorgio Gandola. I nomi sono stati tradotti in arabo. E la cosa divertente, il sindaco cade dalle nuvole e dice: l'ho scoperto da voi. Beh, andiamo bene se l'ha scoperto da noi. Allora, è arrivato il momento della pagina economica, perché ci sono grosse novità. L'apertura del Sole 24 Ore: ape volontaria dal 2018, perso un anno per il via, decreto fermo alla Corte dei Conti, tempi incerti per il sì. Questa è l'apertura, giustamente, perché sapete che l'APE, tutti questi acronimi sono micidiali, sarebbe la possibilità di andare in pensione 3 anni prima per coloro che con la Fornero sono rimasti al lavoro, deve partire ma non riesce a partire, e ce lo raccontano in una paginata spiegando perché e per come Davide Colombo e Marco Rogari. Pagina 3 del Sole 24 Ore. Mentre canta David Gilmour, come gli voglio bene. Etruria è una bella vicenda, lo racconto dal Messaggero a pagina 14. Arriva anche la richiesta di risarcimento danni per i dirigenti di Etruria, già erano stati condannati a una multa e sapete che adesso la richiesta è di 400.000 euro. Altri 400.000 euro purtroppo sono, come abbiamo raccontato con Oscar Giannino, quei dirigenti, fra cui anche Papà Boschi, risultano quasi tutti incapienti. Però chi vuole saperlo, Valentina Errante, Messaggero, pagina 14, il liquidatore promuove l'azione civile contro i componenti degli ultimi CDA. Era importante leggere questa notizia, almeno per me. Ilva, il governo punta a mediare. Repubblica, pagina 10, ieri era saltato il tavolo, oggi, succede spesso così in Italia, spunta uno spiraglio, una possibilità. Rosaria Amato, a pagina 10 di Repubblica: forse già oggi le nuove proposte del gruppo, i sindacati non accetteranno compromessi sulla retribuzione. La Bellanova, sottosegretario: nessun problema con l'antitrust. La sfida dei 700 euro, il pezzo di sotto di Vittorio Ricapito, spiega di quanto è 700 euro la decurtazione netta. Lo stipendio lordo passa da 3.000 a 2.300 euro. Sempre su Repubblica, però nelle pagine dell'economia, il dato sul PIL italiano e un'intervista preoccupata a Cottarelli, che voi sapete chi è l'ex commissario alla Spending Review. Il debito sta esplodendo, bisogna alzare a tutti i costi gli stipendi della classe media. E la sua visione è preoccupata, l'intervista di Roberto Petrini: la crescita c'è, ma è ancora troppo bassa e fragile. Restiamo esposti a possibili shock nell'economia mondiale europea. Io spero che, dice Cottarelli, intervistato da Repubblica, per un po' di tempo non ci siano ulteriori shock provenienti dall'esterno e che l'economia europea possa continuare a crescere, ma non possiamo contare per sempre su un contesto esterno favorevole. Questa è la valutazione. E oggi, se volete le segnalazioni da ritaglio, sul Sole c'è un inserto di 16 pagine sul codice antimafia. Estensione del sequestro, quindi attenzione perché sono le norme delicate che riguardano le imprese, confisca, reati contro la pubblica amministrazione, truffe nelle erogazioni statali. Il Parlamento ha aggiornato l'apparato preventivo del codice antimafia con una legge che passerà alla storia per l'equiparazione fra mafiosi e corrotti. Ma le norme, sto leggendo dal Sole, non dicono solo questo. Rilevanti sono le novità che riguardano aziende sequestrate a partire dall'amministrazione giudiziaria o da nuovo strumento del controllo. Ebbene, tutto questo oggi è in edicola una monografia con tutte le novità delle leggi, tutte le istruzioni e l'uso per sapere che cosa bisogna fare con i pareri degli esperti. Sono 16 pagine, prendete, ritagliate, conservate, perché ce n'è un bisogno pazzesco. Traffico. Ciao papà, sei obeso. 24 mattino. Rieccoci, allora dalla stampa, pagina 7, la Sicilia 5 stelle, parenti e portaborse nella lista di cancellieri, mogli, fidanzati, assistenti corrono per le regionali, anche nel Lazio si sfrutta lavoro e famiglia per candidarsi, però ricordiamo che in Sicilia ci sono anche 10 super indagati che sono segnalati dalla commissione. Allora, un'altra notizia che mi sembrava importante, non so se lo sapete, esiste un racket delle truffe agli anziani, che io considero una cosa vergognosa, semmai esiste una classifica dei crimini, coloro che si travestivano per truffare gli anziani erano in fondo a questa classifica di indignità. Ebbene, sgominata la gang dei finti carabinieri, il Corriere pagina 23, Fulvio Fiano e Antonio Mariozzi, paghi i danni dell'incidente a suo nipote, Frosinone 12 arresti e 100.000 euro recuperati, erano stati truffati con bugie di questo tipo da finti carabinieri in divisa. Che schifo, che vergogna. E vabbè, quindi festeggiamo questo arresto, io lo festeggio. Il Fatto su Fazio. Perché anche la seconda puntata non gli è andata bene dopo le super polemiche sul super ingaggio del suo programma su Re 1, è andato male, è vero che si è scontrato con la nazionale, va detto, ma è andato al di sotto degli ascolti della rete, e allora c'è una disamina di questo flop, crollo spettatori in fuga dal vuoto di idee e da Franceschini, dice Selvaggia Lucarelli, è una paginata godibile scritta con la solita penna caustica di Selvaggia, e la cosa interessante è Anzaldi, il deputato del PD in commissione di vigilanza, è tornato al Sanremo voce. Non ci avevano spiegato il super compenso di Fazio, le condizioni di assoluto privilegio per la sua trasmissione erano giustificati dal sicuro ritorno pubblicitario? Bene, non è così, che tempo fa crolla a rischio 10 punti di share. Allora vi dovevo raccontare queste cose che stanno nel costume. Asia Argento su Corriere della Sera denuncia, come sapete, di essere stata molestata da un famoso produttore americano, oggi sotto accusa. E poi la Catalogna, dove segnalo l'alt al processo di indipendenza su Avvenire, la Catalogna sospesa, il pezzo di pagina 5. Puigdemont, non siamo golpisti, tempo di dialogo, ma Rajoy e il governo centrale spagnolo rispondono durissimamente. Lucia Capuzzi a pagina 5 di Avvenire, e chi vuole approfondire, una bella intervista di Marias su come è stata inventata, dice lui, la nazionalità. Allora è importante, ma adesso andiamo alla nostra mitragliata. Allora, sul Tempo si racconta questa vicenda paradossale dell'asta, se li contendono i quadri dei killer. Pensate, pagina 11, spendono cifre da follia in fila per comprare i quadri dei killer in Inghilterra, messe in vendita 26 opere e una lettera, appartengono a 4 degli assassini seriali più feroci della storia, sono tutti esauriti i posti per partecipare. Angela Di Pietro sul Tempo, ma sono robe strane, eh? Sul Libero a pagina 21 si parla dei cibi tarocchi. E che cosa intende con questa definizione il giornale? Alla fiera di Colonia, pensate, erano comparsi su tutti i banchi decine e decine di falsi italiani. E stiamo parlando di spaghetti Banetti, pasta Dona Mia, Dona con N sola, spaghetti la parmigiana, la conserva di pomodoro Tomatino, e poi lui il parmesan della Kraft e la pasta alla bolognese in scatola Morcadella. Morcadella, ma come gli vengono? I sequestri sono stati possibili, Libero pagina 21, grazie al supporto del desk predisposto dalla fiera Cibus Federalimentare, che si è avvalso dell'aiuto di uno studio legale specializzato. Metteteli in manette, il parmesan non si può sentire, non si può sentire. Allora, sempre da Libero, perché ce l'ho sotto mano, torna Guerra Stellari ed è una buona notizia. Fra l'altro, andate a vedere che cosa pazzesca che è l'ultimo Blade Runner, un film mozzafiato, 2 ore e mezza, ma torna anche Guerra Stellari, l'ottavo episodio in rete, il promo, e il regista protesta, cioè il regista di Guerra Stellari protesta contro il promo: tenetevi alla larga da quella pubblicità perché rivela troppe cose del mio film. Vabbè, ma qua siamo alla follia, ma non lo poteva dire ai suoi produttori, alla sua casa cinematografica? Su chi? Noi non perdiamo mai l'occasione di leggere chi in questi momenti. Sapete che c'è stata l'esternazione di Romina: Albano mi ama ancora. Sapete che ieri Albano ha detto al Corriere: mi lasci in pace. E adesso la risposta di Loredana Lecciso, la copertina di chi? Romina, fattene una ragione, Albano ama me. C'è una disputa a colpi di macete, oserei dire, e di SMS fra la Pellegrini, gli allenatori, i suoi concorrenti. Il titolo del Messaggero a pagina 28, Fede nella bufera dei social, dove Fede, ovviamente Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto, è stata colpita da il figlio di un allenatore che lei diceva di avere insultato. Quello si è vendicato scrivendo: sei tu, Matte, il mio pene dell'anno, scrivendo che non posso riferire posizioni alla pecorina, cose di questo tipo. Adesso rischia la squalifica, hanno un po' tracimato. Però la cosa più bella su Repubblica pagina 23 e sul Fatto è la vicenda di un sindaco beccato dall'Adige, uno scoop dell'Adige. Allora, aveva messo dei commenti per i suoi cittadini la vicenda dei comuni. Qualcuno è andato a curiosare, il giornale è andato a vedere da dove venissero queste frasi che sembravano delle citazioni, e si è scoperto che il ghostwriter di questo sindaco di Soyer, Carlo Battisti, era Adolf Hitler. Cioè, aveva preso delle frasi del Mein Kampf per commentare la vicenda delle autonomie, cioè una cosa da pazzi, ma la spiegazione è meravigliosa. Ho frequentato le scuole dell'obbligo e l'italiano non è il mio forte, così ho affidato alcuni appunti con il mio pensiero a un giovane collaboratore che, forse credendo di rafforzare meglio il mio pensiero, ha utilizzato quelle frasi a mia insaputa. Ah, poverino, vuole rafforzare il suo pensiero, a zappare la terra. GR, ci sentiamo dopo. Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula.